L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, bentornati all'altro pianeta, il pianeta della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Un rispetto che gli italiani vorrebbero sempre di più, almeno così dicono nelle ricerche. Buon pomeriggio Massimo De Meo, amministratore RISL, relazioni istituzionali e studi legislativi, che anche quest'anno ha preparato e poi pubblicato MOP Ambiente, rapporto sulle opinioni degli italiani in materia d'ambiente. Benvenuto. Buongiorno, buon pomeriggio a voi tutti. Poi ci dirà se davvero, insomma, gli italiani sono così desiderosi di essere più rispettosi per l'ambiente. Buon pomeriggio anche a Paolo Tomasi, presidente del COU, che è il consorzio obbligatorio oli usati, che la voglia degli italiani di rispettare l'ambiente l'ha testata sul campo in questi anni. Benvenuto. Buongiorno a tutti quanti. Dunque De Meo, dicevamo, siete alla settima edizione? Esatto, il settimo rapporto, abbiamo iniziato nel 2003 sotto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e ci eravamo proprio interrogati dell'esigenza di creare una struttura permanente che a distanza di anni verificasse appunto le tendenze di che cosa pensano gli italiani, e abbiamo iniziato a creare una specie di indice di sensibilità ambientale. Che cos'è, senza annoiarvi sugli aspetti tecnici? È l'insieme di almeno quattro domande che quindi noi continuiamo a ripetere a un campione sempre appunto di cittadini italiani sopra i 18 anni, quattro domande che riguardano la cosiddetta propensione, quanto gli italiani tendono a informarsi e a discutere di problemi ambientali, quanto hanno di percezione della propria attenzione dell'ambiente e soprattutto quale contributo può ciascuno dare rispetto all'ambiente, e soprattutto, ecco, su questo proviamo quindi a sintetizzare un livello di sensibilità e di attenzione. E questo dato, che si è attestato anche quest'anno sul 67%, quindi su una scala da 0 a 100, vuol dire che c'è una piccola flessione rispetto agli altri anni, allo scorso anno e anche al 2008. Quindi questo rispetto l'abbiamo... al 2003 le cose vanno meglio, perché si iniziò con un 63. Esatto, quindi siamo comunque sopra la maggioranza abbondante, questo, ecco, ci tengo a dirlo, perché l'ambiente è diventato certamente una cosa che è nelle case di tutti e di tutte le famiglie, ma certamente, ecco, noi vogliamo, abbiamo, come dire, voluto scavare un po' di più, perché in effetti come chiedere che quando e in che occasioni parlano con gli amici, al bar, a scuola, in famiglia, di ambiente, ma soprattutto anche se leggono articoli, se seguono programmi appunto alla radio, alla televisione. Anni fa avevamo chiesto anche una domanda del genere, che non c'è quest'anno nel rapporto, qual era proprio anche il mezzo che loro preferiscono, e devo dire che le TV... Qual era, visto che tanto ormai parliamo del passato? Una piccola concorrenza, comunque le TV nazionali e locali erano al primo posto, e subito dopo però c'erano le radio, quindi mi fa piacere evidenziarle, e dopo c'erano gli altri elementi come i siti internet e altro, quindi c'è ancora una preferenza a un'informazione anche, diciamo, un po' più strutturata, no? Certo. Quindi questo è uno dei temi, appunto, come si informano, se ne parlano, e per quanto riguarda gli altri, invece, le altre domande che avete posto. Allora, l'altra domanda, quella sulla sensibilità individuale, è molto importante, perché ci aiuta a capire soprattutto quanto gli italiani effettivamente sono convinti di poter dare una mano sull'ambiente, nel senso che noi gli diciamo: ma quanto può una singola persona contribuire a ridurre l'inquinamento? E qui abbiamo invece una costante crescita, siamo arrivati al 92%, cioè nel senso che rispetto alla domanda dire ma deve fare l'individuo alcune cose per iniziare a ridurre l'inquinamento, ad aiutare l'ambiente, oppure bisogna delegare tutto alle istituzioni centrali o locali? Ebbene, qui c'è una risposta individuale, di comunità e di appartenenza molto forte e positiva, e questo riguarda soprattutto, devo dire, i giovani e le donne, e questo è un altro dato molto positivo. Che ci fa piacere. Tra l'altro poi dopo ci dirà come si distinguono tra giovani e donne, perché c'è chi si prende più o meno responsabilità al di là di quello che appunto poi pensa. Sono dati, Presidente Tomasi, ricordiamo Presidente del COU, che per voi sono particolarmente interessanti, cioè si è passati alla consapevolezza che c'è una responsabilità individuale e che qualcosa possiamo fare. Esattamente, proprio questo. Quello che ci interessava sapere è che in effetti ci fosse questa presa di coscienza individuale, in quanto noi già operiamo a livello delle grosse imprese, a livello dei dettaglianti dei prodotti petroliferi, a livello di punti vendita, però ci interessava sapere il comportamento individuale. Perché? Perché di fronte a un cambio d'olio evidentemente poi uno si trova ad avere tra in una bottiglia, per esempio, un prodotto fortemente inquinante e la tentazione di sbarazzarsene nell'ambiente è molto forte. E allora, certo, perché tutti sappiamo in teoria del pericolo per l'ambiente, evidentemente questa è fondamentale. Il campione, l'analisi fatta, ci dà dei ritorni estremamente interessanti, in parte in pratica alla domanda specifica se il cambio di olio lubrificante rappresenta un pericolo per l'ambiente, il 76% del campione ha risposto positivamente, quindi si prende atto che questo è un forte pericolo. Se si raffronta questo 76% con una stessa domanda fatta nel 2004, ci accorgiamo che la differenza di percezione è decisamente aumentata del 40%, siamo passati dal 54 al 76, e questo è un elemento estremamente interessante, perché vuol dire che insieme a tutte le cose che ha evidenziato De Meo c'è anche questo estremamente importante della presa di coscienza del danno ambientale che si può fare attraverso un'operazione che di per sé sembrerebbe semplice. Quindi si sa che possiamo fare qualcosa, si sa che la dobbiamo fare. E quanto sono diffusi i comportamenti virtuosi, De Meo, secondo la vostra ricerca? Abbiamo dimostrato e verificato che c'è una correlazione, proprio grazie all'analisi dell'Eurisco che ci segue da anni proprio su questi sondaggi. Abbiamo verificato quindi anche in vari campi, per esempio, che ci sono stati degli incrementi su alcuni comportamenti, tipo l'utilizzo sempre più, come dire, parsimonioso, attento degli elettrodomestici, dell'elettricità in casa, ha avuto un aumento dell'8% rispetto già all'anno scorso, come anche, e questo però probabilmente deriva anche da nuove normative, sicuramente quello di usare il cosiddetto sacchetto personale per la spesa o della borsa rispetto a quelli di plastica. Che quella non è tanto una scelta personale, esatto, però. Invece ecco, una norma che ha reso più obbligatorio questo comportamento, ma già abbiamo riscontrato ben un 22%, e quindi sappiamo però che anche altre norme non sempre vengono rispettate subito, dalle cinture di sicurezza ai caschi. Purtroppo ci è voluto anche molto tempo perché entrassero, come dire, nella familiarità italiana. Invece ecco, questo elemento conferma una maggiore attenzione, fino ad arrivare a spegnere la TV quando non si guarda, e questo noi lo diciamo certamente è un comportamento virtuoso che è anche legato però diciamo a una crisi economica che ha iniziato a mordere anche nel nostro paese dal 2008 a oggi certamente, ed ecco perché i dati che abbiamo verificato, il fatto che si parli un po' meno di ambiente ma si parli un po' più di un'economia che sia però attenta e rispettosa sempre dell'ambiente oltre che dell'occupazione. Quindi in un certo senso la crisi ha fatto sì che ci fosse, che l'ambiente ne traesse giovamento. Diciamo che c'è stata un'accelerazione in qualche modo, quindi di parallelo con questo aumento di consapevolezza e di autoefficacia c'è, come dire, una valutazione anche di convenienza, quindi che fa bene anche alle proprie tasche essere più attenti all'ambiente e a una politica energetica più equilibrata. La prende un po' a rovescio rispetto a quello che ci chiederebbe l'Unione Europea, però insomma il risultato finale è che c'è un maggiore rispetto per l'ambiente. Esatto, insomma, esatto, no? Di là ci si chiede fate più differenziate perché da lì arriveranno le risorse per uscire dalla crisi. Noi vabbè, le risorse le troviamo diversamente, ma insomma l'ambiente ne trae comunque giovamento. Dal rapporto è anche piuttosto evidente la richiesta dei cittadini alla politica in senso ampio. Che cosa ci si aspetta dalla politica? Ecco, anche in questo campo noi appunto perciò valutiamo non soltanto i sondaggi quantitativi ma anche un po' quelli qualitativi e anche gli strumenti che le amministrazioni pubbliche, centrali e locali mettono in campo. Sicuramente il tema principale rispetto alla politica rimane quello della raccolta differenziata, nel senso che si è verificato effettivamente anche qui a un impegno maggiore degli enti locali e alle crisi, alle vere e proprie emergenze che ci sono state in grandi città, un aumento sia di percezione dell'importanza della raccolta differenziata, ma anche effettivamente di una maggiore, come dire, sostenibilità delle scelte delle stesse amministrazioni. Ma questo si risulta ancora di più, questa valenza politica sociale, meno ideologica bisogna dire del passato, rispetto alle aziende, ai comportamenti delle aziende, ed è la dimostrazione che la sostenibilità diventa un valore che crea appunto, come un gioco di parole, sempre più valore. E per esempio succede che i consumatori e i cittadini sono sempre più consapevole anche in Italia, che possono avere un potere anche, diciamo, di penalizzare le aziende che secondo loro hanno comportamenti non corretti da un punto di vista ambientale o sociale, quindi c'è un ampliamento dal punto di vista ambientale e sociale della cosiddetta responsabilità. Basta pensare che nel giro di pochi mesi, se non di pochi anni, si sta arrivando quasi a un dato quasi del 47%, c'era nel dicembre scorso, di persone che hanno dichiarato che non acquistano prodotti di alcune aziende perché le considerano poco responsabili dal punto di vista ambientale e sociale. E questo ovviamente avrà un impatto, immagino, sulle aziende in futuro. Presidente Tomasi, su questo aspetto, cioè, e nel vostro campo ovviamente, quello degli oli usati, avete avuto sentore di un maggior desiderio da parte delle amministrazioni e delle aziende di instaurare un rapporto con voi e anche di pubblicarlo, cioè di farlo conoscere all'esterno? Certo, è un'attività che noi abbiamo avviato da 28 anni, siamo la più antica agenzia ambientale che si occupa di rifiuti, quindi diciamo che abbiamo una tradizione, all'interno di questo periodo abbiamo fatto tantissime azioni di comunicazione, vorrei ricordarne una perché è in corso, si chiama Circoliamo, un nostro motoromma va in periferia, in tutte le piazze delle province italiane per parlare con i cittadini, associazioni di categoria, industria, commercio, insomma, per divulgare il messaggio ambientale come primo, ma poi il recupero, l'attenzione all'olio usato come elemento di traguardo finale, in quanto recuperare un olio usato non vuol dire soltanto rispettare l'ambiente, ma anche produrre a valle un sistema industriale importante che è la rigenerazione. Pochi sanno, e noi invece vogliamo comunicarlo con una certa forza, che attraverso la raccolta e il riutilizzo dell'olio usato sono stati risparmiati circa 3 miliardi di euro sulle importazioni di prodotti energetici, e questo evidentemente la dice già lunga, sottendendo un concetto fondamentale, e cioè soltanto se si integra un'attività ambientale con un'attività economica si possono ottenere dei risultati estremamente importanti, ed è quello che si sta cercando di fare da un po' di tempo a questa parte, e direi che è uno dei cavalli di battaglia del nostro ministro Clini. Mi pare che il consorzio sotto questo profilo sia stato all'avanguardia e direi che i risultati ci danno pienamente ragione. Non si fa mai abbastanza, ovviamente, perché la comunicazione deve raggiungere il singolo cittadino, perché la consapevolezza e quindi il conseguente atteggiamento è soltanto se c'è una comunicazione corretta, se c'è una presa di coscienza adeguata, e questo è un po' lo sforzo che noi stiamo facendo, ma mi pare che i risultati ci diano ragione. L'altro pianeta. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta. Stiamo affrontando il settimo rapporto MOP Ambiente sui comportamenti degli italiani appunto nei confronti dell'ambiente. Sono con noi Massimo De Meo, amministratore RISL, che appunto ha curato e si è occupato di questa settima edizione sui dati che sono stati raccolti da Eurisco, vero De Meo? Buon pomeriggio di nuovo, esatto, qui abbiamo collaborato con l'Eurisco, appunto, in particolare. Di anno in anno però avete collaboratori diversi, sì, insomma, esatto. No? Quindi... E questa è stata anche una caratteristica, una scelta, del mi diceva anche. Esatto, negli anni abbiamo voluto anche collaborare con istituti anche come l'ISPO di Renato Mannheim, e adesso in particolare con l'Eurisco devo dire abbiamo avviato questi progetti speciali, in quanto l'Eurisco anche a livello europeo fa attività di monitoraggio proprio sulla responsabilità sociale e ambientale, quindi ci è sembrato giusto anche come tema centrale collaborare e verificare con loro proprio per capire meglio, ecco, alcuni dati e, come dire, scorporare non soltanto dai questionari qualitativi ma anche quelli quantitativi, quindi ecco perché possiamo far emergere alcuni approfondimenti rispetto ad alcuni gruppi di cittadini, di fasce di età. Certo, ricordo che con noi c'è anche Paolo Tomasi, che è il presidente del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, che tanta esperienza ha nel settore dei comportamenti degli italiani rispetto all'ambiente. Lo ricoinvolgiamo tra pochissimo. Ora vorrei, De Meo, con lei tornare appunto a questo dato che si evince dal rapporto, ovvero che donne e giovani sono coloro che sono più interessati a rispettare l'ambiente che li circonda. Sono anche attenti nelle azioni specifiche che fanno o sono soprattutto a parole interessati? Certo, la parte più interessante è quando, ecco, come diceva giustamente, andiamo ad affrontare una coerenza tra la consapevolezza, le opportunità di parlare e il mettere in atto determinati comportamenti virtuosi, come li definivamo prima, da quelli soprattutto della raccolta differenziata, ma non solo, a quelli del risparmio energetico, come dicevamo. Ecco, e qui spicca, come dire, una caratteristica soprattutto di un impegno, di un protagonismo femminile e in particolare delle generazioni tra i 45 e i 54 anni. Ecco, questo sono alcuni, diciamo, zoomate che abbiamo verificato e che ci hanno permesso, ecco, come dire, di differenziare un po' la mappa rispetto al dato nazionale, che ripeto comunque è sempre molto alto perché parliamo di un 67%, quindi parliamo oltre della metà, quindi più di un cittadino su due, quindi ha comportamenti virtuosi come abbiamo visto, ma soprattutto, ecco, tende a crescere questa attenzione già dalle fasce giovanili, e credo che in questo, come ricordava anche il presidente Tommasi del CO, abbiano contribuito proprio le campagne di diffusione sul territorio, in particolare nelle scuole, ecco, questa attenzione. Certo, e non rubi il mestiere al presidente del CO, che adesso ci deve dire appunto di questa sua attività. Nel compierla, nell'andare in giro per l'Italia, come avete fatto negli ultimi anni, in maniera molto puntuale, precisa, ripetuta, avete verificato queste stesse situazioni di cui ci parlava De Meo? Anche nei fatti ci sono giovani, diciamo, più attenti, non solo a parole ma anche nella pratica? Sì, noi ne abbiamo fatto un investimento di tutto questo, perché abbiamo puntato decisamente sui giovani con sistemi sempre più all'avanguardia. Oggi abbiamo avviato un progetto che si chiama Scuola Web Ambiente, che sostanzialmente fornisce le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado di un sistema di web, in buona sostanza un sito all'interno del quale i giovani possono cimentarsi nelle tematiche ambientali. Non soltanto parlare di lubrificante e di olio, ma anche più in generale del tema specifico dell'ambiente. Certo, dell'ambiente. L'altro elemento fondamentale, vorrei ricordarlo, è quello del nostro format Circoliamo, lo facciamo oramai da tantissimi anni, ma con dei brevi intervalli temporali ci richiamo con un motorhome attrezzato a fare divulgazione ambientale in periferia, quindi non siamo più su un sistema fisso, ma andiamo e raggiungiamo tutte le province italiane e in una piazza ci sistemiamo col nostro sistema e facciamo un po' di educazione ambientale alle scuole. Ma quindi fate un'informazione porta a porta, diciamo, ecco. Esattamente, un qualche cosa che tra l'altro ci viene riconosciuto molto positivamente e ovviamente ribalta in maniera molto maggiore che nel passato sui media locali. Lei pensi che quando noi arriviamo in pratica ci sono perlomeno dai 15 ai 30 media che stanno parlando di questo evento e quindi il parlarne vuol dire ricollegare l'olio usato al problema ambientale e al problema comportamentale. Vorrei dare un numero che poi è la sintesi di quello che ho detto. Il consorzio in 28 anni di attività ha raccolto qualcosa come 5 miliardi di chilogrammi di olio. E se queste quantità fossero state disperse nell'ambiente, per esempio, avrebbero potuto inquinare una superficie grande come due volte il Mar Mediterraneo. Quindi impressionante. Particolarmente. Io vi ringrazio per essere stati con noi, Massimo De Meo, Paolo Tommasi, e devo cedere a questo punto il microfono a Maurizio Melis per la sua rubrica Mr. Kilowatt. Grazie. Basta a volte un po' di verde per rendere più accogliente un ambiente, per farci sentire più a nostro agio, noi che in fondo abbiamo una storia di 200.000 anni di evoluzione a contatto con la natura. D'altra parte, applicare il verde negli edifici ha anche altri effetti e in particolare può aiutare a contenere i consumi energetici. Il verde infatti applicato su tetti, su terrazzi, al posto quindi di piastrelle, al posto di tegole, può avere un doppio effetto. effetto non solo quello di isolare d'inverno, ma grazie a un fenomeno del tutto naturale, la evotraspirazione, cioè il meccanismo con cui le piante governano la loro temperatura, ebbene uno strato di erba posizionato su un terrazzo o su un tetto funziona come un grande condizionatore naturale. D'altronde nessuno si è mai scottato i piedi camminando su un prato. Oggi per realizzare questi che sono in fondo dei giardini pensili ci sono sistemi ben collaudati che permettono il drenaggio dell'acqua e forniscono un substrato su cui le piante possono crescere. Ma oltre alla dimensione orizzontale esiste la dimensione verticale. Un muro di rampicanti pensante già riduce di circa l'80% il surriscaldamento di una parete esposta al sole d'estate. E oggi esistono tecnologie che consentono di creare veri e propri giardini verticali, quindi substrati che si possono applicare ai muri e sui quali possono crescere varie specie vegetali. Questo sistema crea una sorta di cappotto naturale che ancora una volta isola d'inverno e mantiene sotto controllo il surriscaldamento d'estate. E se volete potete unire capre e cavoli, risparmiare energia e coltivarvi l'insalata. Articolo 9 invece è l'altra nostra rubrica curata da Marco Carminati per la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione. Buongiorno da Marco Carminati, oggi siamo in collegamento con il dottor Domenico Saponaro, che è il presidente di Italia Nostra di Brindisi. Buongiorno presidente. Buongiorno a ecco. Lei e a tutti i radioascoltatori. Lei ci accompagna oggi nella sua bella regione, in Puglia, in particolare nella città di Brindisi, dove ci vuol far vedere un luogo particolarmente importante, il Castello Federiciano Alfonsino. Ecco, ci racconti un po' dove siamo e brevemente anche la storia di questo monumento. Il luogo è importante, il Castello Alfonsino, Castello Aragonese per l'esattezza, è un luogo molto affascinante che costituisce un unicum nell'intero panorama nazionale, in quanto si tratta di un maniero con un forte, con una piazza d'armi, molto, un complesso monumentale molto ampio, molto esteso, che sorge su un'isola all'imboccatura del porto e dà il benvenuto ai viaggiatori con la sua maestosità, con la sua bellezza. Dentro il castello che cosa c'è? Il castello è stato oggetto di lunghi restauri negli ultimi anni, al momento non è utilizzato, è in attesa di una destinazione d'uso, di una fruibilità che tutti i cittadini di Brindisi e non solo attendono, ma ahimè purtroppo si va avanti e nel frattempo il monumento versa in uno stato di degrado che comunque può essere contenuto, a questo degrado si può riparare se si interviene subito con un utilizzo mirato ed efficace. Ecco, però a preoccupare la sua sezione d'Italia Nostra non è soltanto il degrado del castello, che chiaramente è stato restaurato e poi non lo si destina al rischio appunto di deperire velocemente, ma un pericolo ancora più grave che incombe proprio davanti nello spazio delle acque davanti al castello. Qual è questo pericolo che voi volete segnalare? La minaccia più incombente, più grossa è quella di realizzare un grande molo crocieristico proprio a ridosso del castello. È un molo crocieristico per navi da crociera di ultima generazione, per intenderci navi che hanno una lunghezza che supera i 300 metri, quindi questo significa realizzare infrastrutture di una certa dimensione, di una certa grandezza proprio a ridosso del castello, minacciandone, pregiudicandone la bellezza paesaggistica, la prospettiva, la visuale, ma anche aggiungendo cemento a ridosso di un monumento che invece merita di godere del suo isolamento, anche peraltro minacciato da una zona industriale che si avvicina sempre più alle città, insomma, e questa è la minaccia più grande, questa realizzazione ipotizzata di un molo crocieristico di una certa imponenza, di una certa importanza proprio a stretto ridosso di questo monumento che invece va tenuto ben distante da questo tipo di minaccia. Certo. L'impatto visivo e paesaggistico sarebbe costituito sia da queste grandi navi che hanno oltre che una lunghezza anche un'altezza molto consistente, ma anche dalle infrastrutture a terra, cioè dalla stazione marittima, dalla strutture ricettive, logistica, infrastrutturale, che andrebbero proprio ad insidiare e a pregiudicare in maniera grave la bellezza del maniero. Italia Nostra è una realtà che denuncia spesso con durezza e con determinazione questi abusi, ma che ha anche spesso parole di alternativa, cioè capace di indicare qualche soluzione a margine. Ecco, in questo caso quale potrebbe potrebbe essere la soluzione a margine, cioè il fatto di potenziare il turismo senza però distruggere quello che è poi il motivo per cui la gente viene in Italia, cioè le bellezze ambientali e artistiche. Infatti sarebbe una contraddizione in termini, certo. No? Parlare di turismo però andare a minacciare a distruggere l'attrattiva, l'attrattiva turistica. Naturalmente Italia Nostra sempre nella logica, nella filosofia del non adottare un no a prescindere, incondizionato, ma sempre con logiche propositive, alternative. Certo. Ovviamente guarda a ipotesi, ammesso e non concesso, che una simile ipotesi possa davvero portare dei benefici di carattere turistico allo sviluppo, alla crescita della città, ma qui ci avventuriamo in un territorio un po' più l'alternativa è quella di realizzare, se davvero lo si vuole fare, si vuole insistere su questo progetto, realizzarlo a debita distanza dal castello, in un altro sito del porto. Noi abbiamo un porto grande, bellissimo, fatto di tre bacini, il porto interno storico, quello medio, quello esterno, insomma ci sono altri spazi che potrebbero essere, se davvero lo si vuole, destinati a questa infrastruttura che, ripeto, sarebbe minaccerebbe gravemente la bellezza paesaggistica sia del castello che dell'intero porto, che storicamente ha un'importanza storica e paesaggistica di una certa rilevanza. Presidente, io la ringrazio per questa sua testimonianza, grazie mille. Grazie, grazie anche a lei e a tutti gli ascoltatori nuovamente. Buon lavoro alla sezione di Italia Nostra di Brindisi e un caro saluto a tutti gli ascoltatori. È tutto per questa puntata, vi ricordo per scriverci l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.